che si stava disfando, chi era quello che stava sparando parolacce, l'ha riconosciuto? Capo, già l'ho riconosciuto, sì, già l'ho riconosciuto. Capuccetto Rosso, se mi ascolti, Torellino spacca tutto che ti fa chiamata. Ma insieme, ma c'è la cosa, come un passo in passo, lo sentito tutto un intrigante, ma come è successo? Io anche adesso il giornale, perché l'ho sentito e c'è una parolaccia. Già l'ho riconosciuto, sì, chi è? Contro uno lì. No, l'altro ho sentito che l'ha risposto male. E non lo so, lui gli vorrebbe infilare il salone, il foglio, il bocca di mano. Qua tra gente maleducata, portata, non si capisce più niente, Cosa hai detto? Tra gente maleducata, l'amico che mette sempre una portante, non si capisce più niente. C'è una portante? Ma avrei qualche splatter casomai, portanti non ce ne sono qua. Ecco. Perlomeno io non lo sento, Avanti il becco, una buonasera. Adesso la buonasera a te, sperando degli appunti. Capa, io sento forte e chiaro. Da questa parte Torellino spacca tutto, è compagnia di Giovanni, avanti. Buonasera Torellino, buonasera a Giovanni, lo sento. Allora ha sentito anche quel tipo che non sento con qualcosa, No, non è capito. No, dimmi, amico, con chi ho piacere parlare, Giovanni della Bosbusi. Andiamo, Giovanni, non te l'ho mai sentito. Avanti, dai, ripetimi, Giovanni, che sta facendo un manovra, non ti ho sentito. Entrare, noi usciamo di nuovo. male, devo sapere. Oh, come